Action presenta. Un prodotto ideato e condotto da Frego, Diego e Dennis. Musica, informazione, curiosità e molto di più. E60, l'informazione divertita. People say a man is made out of mud, a poor man made out of muscle and blood, muscle and blood, skin and bone, a mind that's weak and a back that's strong. You know, 16 guns, and what are you getting? Another day older and deeper and dead. Saint Peter, don't you call me, 'cause I can go. I owe my suit to the company store. I was born one morning when the sun didn't shine. I picked up the shovel and walked to the mine. I rode 16 guns, I'm normal and cool. And the strong boss said, well, bless my suit, you know, 16 guns, and what are you getting? Another day older and deeper and dead. Saint Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my suit to the company store. If you see me come, you better step aside. A lot of men didn't, and a lot of men died. One fist is fine, the other still. If the right one don't get you, then the left one won't be. You know, 16 guns, and what are you getting? Another day older and deeper in debt. Saint Peter, don't you call me, 'cause I can go. I owe my suit to the company store. Buonasera a tutti e benvenuti qui a Radio Sanena 102-200, la frequenza che vi parla dal microfono è Frego e la puntata del DFD 360 ha inizio. Chi mi sovrasta nella voce è il mio rompiballe preferito e è Dennis. Buonasera a tutto quanto. Ciao, ciao ragazzi, ciao a tutti, benvenuti a una nuova puntata di 360, l'informazione divertita. Per fortuna oggi non c'è Diego e quindi non lo presenterò, ma mi sa che invece sta entrando dalla porta, è entrato dalla porta, sento l'odore, sta entrando, sento l'odore, arriva il microfono, si è preso il microfono, arriva, arrivato. Avete già cominciato? Bastardi! Com'è qua? Ciao ragazzo, ciao, tutto a posto? Un saluto naturalmente ai nostri carissimi ascoltatori, un saluto alla regia, naturalmente il nostro amatissimo Frego. Hi, good evening all together, and welcome tonight, this afternoon here, radio station. Basta, buonasera. So, Andrew, naturalmente ragazzi, ben trovati, ben ritrovati anche questa settimana, anche questa sera siete qui con noi, sera, pomeriggio e anche un po' merendin, diciamo. E anche un po' merendin, giustamente, sì, sarete qui con noi, qualunque cosa voi facciate, qualunque cosa stiate pensando, non so, state pensando di andare a bere una Coca-Cola con l'aspirina, oppure magari vi state facendo un bidet, facciate, noi vi diamo i nostri contatti, quindi contatti, saluti e dove scovarci. Noi siamo DFD 360, l'informazione divertita, questa radio Sandonà, la frequenza 102-200, il telefono 0421 56 0993, scusate, oggi sbagliata, e ci potete ascoltare su www.radiosandonà.it, senza 100 però, mi raccomando. E naturalmente ricordiamo che oggi abbiamo anche un grandissimo ospite che tra un po' sarà svelato. Esatto, intanto esatto. Per gli SMS 348-4162-771 Facebook DFD Team 360 in parole e DFD Team 360 @yahoo.it per le email. E si comincia, e si comincia. Let's go. Here we go, here we go. Questi erano i Kiss, sì ragazzi, anch'io sono fatto per amarvi, per amarvi tutti quanti sono fatti, avete capito un poco? Che mi vuoi mandare un bacetto? No, non te lo mando un bacetto perché mi fai un po' schifo. Naturalmente ben ritrovati, scusate, naturalmente ben ritrovati qui su Radio Sandonà, anche quest'oggi, anzi anche quest'oggi era un po' che non si proponeva questa rubrica, ma quest'oggi abbiamo, naturalmente noi sapete che con sofisticatissime apparecchiature noi andiamo in giro per il mondo a scovare situazioni, eccetera eccetera, cosa abbastanza simpatica, andiamo a fare delle domande in giro, cerchiamo di capire un po' di più su come funziona il mondo. Diego, e anche questa sera togli il volume un attimo, Dennis, per favore. Beh, e anche... togli il volume un attimo, dovevo fare una premessa. C'è premessa e insomma poi ci sono i collettivi logici, sì, eccetera premessa, eccetera, la premeditazione, c'è la premessa alla conclusione. Che ora è la premessa di solito? La premessa è, a che ora è la premessa? Sì. La premessa della messa, ah, prima della, 10, in premessa, 11, sì, dopo parlo. C'è anche il post messa con la China Martini, buonissima, faceva sempre mia nonna. Con la spuma, la grandissima la spuma, spuma da 100, oratorio Don Bosco. Buona, buona, basta così, basta così e basta, se no andiamo a casa tutti quanti. Naturalmente adesso abbiamo il grandissimo appuntamento con il sondaggio effettuato dal nostro caro Diego, quindi la linea a te Diego per il sondiegaggio. Sì, allora, il GIF Knock e Nod e lo o il gem oh no, viva no, Diego, Diego, Diego, è il contrario, sì. È l'altra parte, no, devi girarlo, parte, esatto. In quale paese vivono meglio le donne coi figli? Scusate, ma mi viene da ridere perché sì, vai, non ero accorto che era rovescio. Non ti eri accorto che era rovescio. Il cervello non capisce. Le illustrazioni si leggono. Come sì, ti sì. chiami? Ok. In quale paese vivono meglio le donne con i figli? Questo qua è stato un sondaggio fatto da noi stessi, sicuramente. Sì, sì, e si è recato Diego all'interno di vari paesi ed ha sondato il terreno. Esatto, allora, il primo in classifica hanno scoperto che è Norvegia. Wow. Secondo in classifica Australia, terza in classifica l'Islanda, l'Italia è sul 18° posto dovuto all'occupazione femminile e a dove l'occupazione femminile è a 12 punti sotto la media dell'Unione Europea. Pochi. È stata dura la quinta elementare. Dove in Italia pochi contratti part-time, insufficienti posti degli asili e poco sostegno alle famiglie povere. Seriamente, questa è una cosa seria. Sì, quindi, essendo una cosa seria, non è da noi e buttiamola a sorridere. Intanto, se vogliamo fare una foto a Diego che si sta asciugando con un metro quadrato di carta paper bianca, ricordiamo che lo studio è diventato l'Avis anche stasera. Perché ormai le zanzare ci stanno. Le zanzare non le sei. C'è un po' d'Avis e un po' di swimming pool, direi. Esatto, tra lo sangue di Diego, tieni il sangue amaro. Fra un po' si scivola tutto quello che su di Diego. Questi capelli ancora ti tratterrebbero qui un po'. Qui abbiamo l'ospite che anche lui sta facendo le acrobazie. Sì. Tanto di DJ, andiamo con Eminem. Una mia ya. Without a doubt, undoubtedly. And all those who look down on me, I'm tearing down your balcony. No way fans are blessed, don't try to ask him why, how can he? From infinite down to the last relapse album, he's still sitting, whether he's on salary, paid hourly, until he bows out or he shits his bowels out of him. Whichever comes first, for better or worse, he's married to the game, like a fuck you for Christmas. His gift is a curse. Forget the earth, he's got the urge to pull his dick from the dirt and fuck the whole universe. I shouldn't have to rhyme these words in the rhythm for you to know it's a rap. You said you was king, you lied through your teeth. For that, fuck your feelings. Instead of getting crowned, you're getting capped. And to the fans, I'll never let you down again, I'm back. I promise to never go back on that promise. In fact, let's be honest, at last we laughed. CD was aired, perhaps I ran them accents into the ground. Relax, I ain't going back to that now. All I'm trying to say is get back to crack loud. Cause I ain't playing around. It's a game called circling, I don't know how. To up, to back down. But I think I'm still trying to figure this crap out. Thought I had it mapped out, but I guess I didn't. This fucking black cloud still follows me around, but it's time to exercise these demons. These motherfuckers are doing jumping jacks now. Questo era Eminem con Not Afraid. E qui, questa sera, ladies and gentlemen, here tonight in Radio Sonora, directly to Yeslo Beach in the summer 2010. Really, ladies and gentlemen, tonight, here in Radio Sonora, DFD 360. No, they can't stop me because here the important, famous, and incredible night tonight is the Radio DJ Station. He is Michael. Salamon! Ciao a tutti! Hi Salamon! Come va? How are you? Hi Michael, how are fine, you? Fine, thanks, fine, tutto bene. Ciao Mike, com'è? Allora Michael, come ti chiami? Michael. Oh, very good. Ma posso farti una domanda, una cosa abbastanza semplice, ma perché ti chiami così? Cavoli, bella domanda. Un attimo, chiamo un attimo mia mamma, li domando un attimo perché ha scelto questo nome. Il cellulare è fichissimo sto tipo, sta chiamando anche sul serio. No, non chiamare, non risponde, non voglio queste balle. Ascolta, prima di tutto c'è una curiosità che tutti mi hanno chiesto, tutti quelli che sapevano che venivo ospite volevano sapere una curiosità. Ma i capelli quanto sono lunghi? No, adesso non molto. Se avete qualcosa vuol regalo, un metro, possiamo misurarli se volete. Oh, tira fuori un metro. Però, sì, ok, perfetto. Eccomi. È la mia altezza. Comunque non molto, non molto adesso. Ma quante volte vai in bagno al giorno? Allora, di solito il mio orario è più o meno prima di andare a lavorare, quindi verso l'una e mezza. No, ma no, la domanda seria era, adesso a parte gli scherzi, abbiamo scherzato. Ma quello che ci chiediamo tutti, naturalmente quello che si chiedono anche i nostri ospiti a casa è: ma tu il bidet lo fai seduto davanti e ti metti dietro? No, no, dai, seriamente, no, noi abbiamo questo famosissimo. Scusa, no, un attimo, Diego ha una domanda. Senza entrare nell'intimità, cerchiamo di un attimo di creare un attimo la retta via. Sempre farsi riconoscere, ma la via del retto. Ascolta una cosa. Sei vergine? Allora, praticamente stavamo parlando, ragazzi, no, ma no, sta parlando dello zodiaco. No, sono toro, sono toro, sono nato il 17 maggio. Io sono toro davanti e vergine dietro. Comunque. Ma allora descriviamo un attimo chi è Michael Salomon questa sera direttamente su Radio Salonà con questa t-shirt verde piena di record cassette degli anni 1980. Abbiamo un occhialetto un po' stile retro, eccolo, nel suo stile un po' così. Abbastanza Britpop, infatti. Con swatch al polso e un occhialetto bello, comunque l'occhialetto stile retro, sì, inconfondibile, sì, sì, per riconoscere Michael Salomon. È classico, il classico. Grande, grande, grande. Insomma, naturalmente abbiamo ospite oggi questo grandioso e naturalmente anche molto anziano disc jockey, si dice così, si dice giusto, yes, disc jockey, yes, yes. Ma allora parliamo un po' di te, naturalmente abbiamo finito di spararle grosse, okay. Quindi parliamo un po' così, facci un po' un sunto della tua biografia, della tua storia, certo. Beh, e grazie, spiegaci soprattutto quando ti sei è stato perfetto, la tua vita è stata molto una vita perfetta, diciamo, ti sei trovato perfetta di fronte a un bivio, esatto. una scelta molto difficile, diciamo. Michè, bravo, bravissimo comunque. Michè, ti posso chiamare Michè? Madonna, allora, Michè, ben arrivato al mattatoio. Grazie. Allora, visto che sei un po' agitato e ti stiamo un po' agitando, andiamo a fare intanto una piccola spesa, quindi ci prendiamo un po' d'acqua, un po' di liquidi per rinfrescarci un po', perfetto. E prepara la lista. Io per esempio sarei pronto con un po' di Green Lemon, che cosa dite voi? Ok, perfetto. Sì, così intanto ci distendiamo un po'. Io ho comprato i salatini, quelli là che hanno i pesciolini che sanno da cipolla. Buonissimi. Perfetto. Michè, passami il mascarpone, sta lì. Sì, ecco, lì. No, dopo quello. Quello è Diego, solo fresco. Diego mi deve fare tiramisù. Poi cosa potevamo prendere ancora? Non so, hai preso te la, non so. Un po' di mozzarella di bufala. Siamo gli altri. State condensato, però. Siempre inspirado, lo va dejando para el ruso Beitelman, Gustavo Beitelman, auténtico gaucho judío de Venado Tuerzo, un sabio, quizás el músico argentino más importante residente en Europa. Va dejando la pelota para Lee Cruz, la violinista danesa, tanguera, dinamita en los dedos y en el alma, bellísima, va tocando la pelota por el costado para Christoph Müller se acerca al área, la va dejando para Filippo El Solal, Filippo El toca para Eduardo Mascaró, está frente al arquero, va a tirar Diogo. L'ordine dei carnivori è molto vario e comprende animali di diverse dimensioni, dai grandi orsi polari alle piccole tonnole, dai velocissimi ghepardi ai goffi elefanti marini, ai lupi che vivono in branchi, alle tigri che invece preferiscono vivere solitarie. Sebbene vengano denominate carnivore, signori, termine che si utilizza per qualsiasi tipo di animale che si nutre di carne, alcune di queste Tony specie Angela non la mangiano affatto. Mi scusi, signor Mi dica, professore. Prego. Buonasera intanto. Buonasera a tutti voi e benvenuti a una nuova puntata di Qualche Stronzata. Avevamo un nostro amico qui di nome Michael Salomon che desiderava farle una domanda. Prego. Io, professore, le volevo chiederle, secondo lei, quante macchie ha sul corpo questo animale? Ma sinceramente non lo so. Io non sono come te che non faccio un cazzo dalla mattina alla sera e posso permettermi di contare le macchie sul leopardo. Beh, diciamo che è una risposta molto esaudiente quella, grazie, che ha dato, grazie, professore. Volevo farle anche una domanda. Prego, mi dica pure, faccia pure la sua domanda. Io ricordo quando andavo a scuola negli anni 90 usavo lo zaino Leopard. Ah, perché lei è andato a scuola? Sì. ho fatto le scuole alte e, però comunque diciamo ho usato per molti anni lo zaino Leopard. Scusami, sì. Prego. È scuole alte nel senso che era al quinto piano. Sì, dai, è vecchio. Ah, non nel senso che era alto lui. No. Prego. Comunque utilizzavo questo zaino Leopard. Lei mi può dire con che materiale è stato fatto questo zaino? Ma a discapito del nome, io suppongo che sia stato prodotto con una qualche materia derivata dal petrolio. E quindi? E quindi non ha niente a che fare con... E io che ho un giubbotto di pelle nera? Ma evidentemente ha scuoiato qualche africano, non lo so. Qualche africano essere... della savana o dell'Africa nera subequatoriale? Ma in cos'altro ci può dire un attimo un po' di questo felino? Felino è una famosissima località italiana dove viene prodotto un buonissimo salame che viene stagionato e viene consumato solitamente insieme alle castagne e al vino invecchiato in barrique. Beh, noi dobbiamo ringraziare in una maniera incredibile. Grande, dobbiamo ringraziare. Un grandissimo applauso al nostro professore dell'università della scienza di Quark. Grazie, Graziella e grazie. Mi sento più ricco. Più ricco. Grazie. Io no, invece, mi sento sempre un poraccio della Madonna. già è finita la prima parte qui su Radio Sanona 102.200, la frequenza direttamente da Litfiba. Dennis, vuoi dare i tuoi contatti per favore? Yeah. Dopo l'ascolto del medesimo che ha ascoltato al contrario può darvi anche qualche sorpresa, diciamo che noi siamo su Radio Sanona, la frequenza è 102.200 e il numero di telefono è 04, vabbè è sempre quello, www.radiosandona.it, lì ci potete, ci dovete ascoltare. Il numero per mandare gli sms è Frego Pelù, è il 3484162771. Yeah. Sembravi più quello della stazione, che ti ricordi quello che... È una sigaretta! Naturalmente per Facebook DFD, DFD Team 360 in parole, mail dfd360@yahoo.it, e mi raccomando non ci lasciate che abbiamo quel diavolone di Michele. Ehi Michele, a fra poco. Michele! Saluti, a fra poco, non ve ne andate. Vi avvisano i signori ascoltatori che ogni giovedì dalle 20 alle 21 e ogni venerdì dalle 14 alle 15 va in onda 3.60 l'informazione divertita. Solo su Radio Sandona 102 e 200 e su www.radiosandona.it. Frego è mitico, Dennis pure, Diego, stai a casa tua. Ben ritrovati qui a Radio Sanona 102.200 in compagnia dei nostri ospiti DFD, Diego, Frego, Dennis, ma soprattutto di Michele Salamon. Michele Salamon, ben ritrovato bene. Hai trovato bene? Benissimo. Ebbene, oggi ricomincerà, avremo la nostra nuova rubrica, nuova, non è nuova, è vecchissima come rubrica, però per me è sempre nuova. Mamma mia, grandi stronzate che sbaglio. Parleremo dei classici film anni 80. Oggi sarà Robinson Crusoe. Cosa? No, non è Robinson Crusoe, quello era un'altra cosa. È vero, allora, saranno allora i Griswold. No, i Griswold. No, sbagliando. No, Diego, no. Anche loro? No, sono i Robinson questo. Sono i Robinson. I Robinson. La famiglia Robinson, vi ricordate, con Bill Crosby Come si chiama? Bill Cosby. Aspetta un attimo che leggo. Allora, Bill Cosby. Bill Cliff. Bill Cosby. Bill Cosby. Vabbè, non importa, chi se ne frega. Ricordate sicuramente, beh, naturalmente il nostro ospite è abbastanza giovincello, credo che comunque si ricordi lo stesso dei Robinson. Sì, mi ricordo. Ah, ti ricordi, beh, bravissimo, si ricorda, ha detto che si ricorda e... Anche se non è vero, secondo me. No, non importa. allora ha fatto cenno che non è vero. Mi racconterai la storia dei Robinson. Parlaci, sì, allora, è facile leggere, mi prendeva il foglio dalle mani colui. Visto che tu ti ricordi, adesso io voglio sapere. No, dai, non importa. Io non lo voglio sapere, invece. Fidatevi. Ecco, ci fidiamo di te, naturalmente. Ci fidiamo di te. Storie strane di questa famiglia, insomma, numerosa, con Cliff che era un ostetrico e gran matacchione, insomma, ve lo ricorderete. Questo simpaticissimo Claire, che era un avvocato, insomma, i figli Denise, Vanessa, Rudy, Teo era l'unico maschio, poveretto, per non parlare delle continue intrusioni dei soceri. Naturalmente è stata trasmessa per 8 stagioni, detiene il record di 5 anni consecutivi al numero 1 delle classifiche di popolarità. Cliffhanger. Naturalmente il quasi 72enne Bill Cosby, vincitore nel 99 di un premio speciale del pubblico per il miglior personaggio della storia televisiva, è un produttore televisivo di successo, mentre come si chiama questa? Felicia Rashad, sua moglie Claire, dal passato sentimentale molto burrascoso, è stata tra l'altro sposata a Victor Willis, eccetera eccetera. Mentre Lenny Kravitz è stato sposato per sei anni, avete sentito poc'anzi la sua bellissima canzone Runaway, è stato sposato con quella che interpretava Denise, cioè Lisa Bonet, praticamente. Quindi è stato interpretato il Brad Bivier. Teo invece, Malcolm Jamal Warner, è diventato regista televisivo, tra l'altro, di alcuni episodi di Il Principe di Bel Air. Mentre Vanessa è un'attrice televisiva, vista anche in Italia nel bellissimo telefilm The Practice. Parla di avvocati, di cose, ciunza da varie. Hanno visto tutti. Abbiamo parlato di Robinson Crusoe. Li abbiamo accontentato anche questa volta con la rubrica dei telefilm degli anni 80. Siamo a posto. Io tengo la camicia con i bottoni a clip, capito? Hai bottoni a clip? Ma no, quei clip sono quelli che stanno sui cuscini. Poi sapete. Since you were looking for your friend, the one you let hit it and never called you again. Remember when he told you he was about to Benjamins? Yeah. You act like you and him, they give him a little trim to begin. Now you think you really gone for 10, like you wasn't down and you called him again. Plus when you give it up so easy, you ain't even fooling him. If you did it then, and you probably can. Talking out your neck saying you're a Christian, a Muslim, sleeping with the gin. Now that was the sin that did Jezebel in. Who you gonna tell when the repercussions spin? Showing off your ass cause you thinking it's a trend. Girlfriend, let me break it down for you again. You know I only say it cause I'm truly genuine. Don't be a hard rock when you really are a gem, baby girl. Respect is just the minimum. Nigga, but you still defending them now. Lauren is only human. Don't think I haven't been through the same predicament. Let it sit inside your head like a million women in Philly pen. It's silly when girls sell their souls because of sin. Look at where you be in. Hair weaves like Europeans. Fake nails done by Koreans. Come again. Cari ascoltatori di DFB Team 360, l'informazione divertita, anche quest'oggi è giunto il momento del consueto appuntamento con la più incredibile, con la più stupenda, con la più sexy nonnina rompicoglioni d'Italia, soprattutto la più desiderata, soprattutto la più detestata. Sono dal sottoscritto. Progressi, eccola, sta arrivando, eccola, a voi, attenzione signori, solo per voi, su Radio San Donà, arriva nonna Fregolina. Sì, eccomi qua. Eccomi qua, ecco qui, sono tutta io con le tette a sciarpa. No, Diamoci un taglio, sennò qua si mandano, ci danno lo sfratto. Oggi la vedo casata. Mamma mia, l'ha presa male. Underground, questa sera, underground. Scusa, nonna, la settimana scorsa con i Bonnie Black ci ha fatto fare un figurino di... È un figurino di fagioli, direi. Esatto, di fagioli. Perché, ragazzi? Oggi abbiamo un nuovo ospite, per cortesia. Sì, si comporti bene, insomma. Soprattutto non cerchi di sedurlo, perché... Vero che questa sera c'è carne fresca. Michele, non guardarlo. Non guardare, sennò vomiti subito. Guarda io. Io dico non guardarlo perché mi sembra un uomo. C'è anche la barba la nonna. Ti ho detto che questa sera mi sono messo un po' in disabile. Ho messo le tette a sciarpa per dare un attimo per dare un po' di allegria a quello che pensavo che fosse lana rosa quella. Comunque, ragazzi, questa sera, soprattutto per te, caro amico, che sei arrivato, come ti chiami, ragazzi? Michael. Mi attizzi, Michael. Che nome sexy. Comunque, allora, questa sera per te, caro ragazzo, Michael, ti chiami? Ti piace? Questa sera per te, caro ragazzo, ti preparerò una bella ricetta. Grazie. Sentiamo la bellissima e gustosissima e schifosissima ricetta di nonna Fregolina. Allora, questa sera abbiamo uova la salsa di acciughe. Quanto gusto e sapore, solito. Mamma mia, ragazzi. Ingredienti per me e per te, caro. Ok, per noi no, vero? È un tet a tet questo. A voi ho già dato. No, appunto, ci basta. Allora, ti preparo 4 uova sode avanzate, 12 filetti di acciuga. Avanzate nel senso che stanno più avanti, che sono avanzate rispetto alle acciughe. No. Comunque non sta screcciando, è normale. Sembravano screcci. Scusi, nonna Fregolina, mi scusi un secondo, rimanga qui tra noi, perché abbiamo un signore che sta entrando. Oh mio Dio, ma è Don Diego! Uè, pronto, come le volevo dire? È arrivato Don Diego. È a posto, dai. Presentammo nonna Fregolina. Don Diego, nonna Fregolina. Mamma mia, quanto è brutta questa cosa. Accattata villa. Che cos'è questa schifezza? È un uomo. È un nostro amico della radio, di questo bellissimo e simpaticissimo programma. Prego. No, non piace mica questo ragazzo. Ma prosegua pure. Va bene, continuiamo. Vai, se ne vada, va, che mi sta di... Madonna mia, sembra la sirena della motonave. Stai disturbando. Comunque, non ascoltare Michael. Allora, continuiamo con la ricetta. Un pognetto di capri, un cespo di insalata, 2 cucchiai d'olio d'oliva, una noce di burro. Scrivi okay. Michele. Sì, sto prendendo nota io intanto. Uè, Fregoli, aspetta un momento. Che cazzo sei tu? Ma che cazzo? Michele? Sì. Chi stai, Michele? Ma no, Michele, Michael. Michele, che ti ho detto io, Michele? Allora, Fregoli, aspetta un momento che mo è arrivato il professore Tony Angela. Salve nonna Fregolina e benvenuta alla enunciazione della ricetta. Ma se ne vada a casa. Lei non è proprio cortese. Io voglio Michael. Michael, io voglio solo te. Questo è un autologato. Ecco, allora, ecco Michael. Allora, ti posso dire il procedimento, Michael? Certo, dimmi pure. Allora, sgusciare le uova sode e tagliarle in 4 parti. Sminuzzare i filetti di acciuga, metterli in un tegamino con olio e il burro e farli sciogliere a fiamma moderata. Unire i capri pestati e tenere la salsa sul fuoco per alcuni minuti mescolando. Mamma che schifo. Disporre le uova su piatto rotondo, versarvi sopra la salsa preparata. Buonissimo. Decorre il centro del piatto con le foglie di insalata e con le fette di ananas, e te ne servo tutte, caro mio. Buonissimo. Di la verità, Michele, di la verità, Michael, lo so, dai, ma non scherziamo. Scusate un momento, ma non era meglio la pasta e fagioli che la cotta calda? Amiche. Allora, dicete un poco a noi. E tizzano un poco la nonna Fregolina. Buonissimo. Io no, comunque... no, No, il piatto, se tattizza la nonna. La nonna non moltissimo, perché c'ha è molto barbuta, diciamo. No, nonna, stiamo logicamente. Ricorda, sì, sei bellissima. Ricorda che nonna barbuta è sempre piaciuta. È vero, anche questo, certo. Caro mio, certo. Lo sciavo, io però volevo che mi dicessi di nuovo il termine sgusciare, per piacere. Sì, io ti sguscio tutte le uova. Che perfetto, uova. Grazie, nonna, amico, grazie. Non faglielo ripetere. Fantastica, non è qualcos'altro. Fantastica. Ascolta, ragazzi, io so che tu sei un DJ, vero? Sì. Allora io credo che potremmo ascoltarci un tuo pezzo. Va bene, va e così bene, ce certo. Lo balliamo insieme, yes. Io e te, va bene? Speriamo che sia attico sto ballando, no? Boom! No! Vieni a ballare con me, caro ragazzo. Ok, come te la sei cercata. Come si intitola? Come si intitola? Come si intitola? Come si intitola? Nonna, basta! Come si intitola questo pezzo? Sei loopata, nonna. Si intitola Racing, è un re-edit di The Race, il pezzo di Yellow, un pezzo vecchio, anni 70. Conosco, mi ricordo, sì, c'ero. E adesso fatemi vedere come ballate, vai. Ok, belli, vai, nonna, arrivo. No, vai, nonna. Andiamo a fare la cicchetta, va. Guarda, ascolto. Eccoci ritrovati qui su Radio Sandonà, questo è DFD Team 360, l'informazione gratuita. Ah, gratuita. Diego, perché mi hai scritto gratuita? Io leggo quello che c'è scritto, scusate. No, dai ragazzi, scherziamo. Bentornati, ben ritrovati col nostro... è stato un po' cazzito. Tornati col nostro grandioso e grandissimo, nonché mitico ospite, naturalmente Michael Salomon, il nostro DJ, qui, ben ritrovato, ben ritornato. Grazie, Michael. Grazie. Michael Salomon, più comunemente Miche. Miche, detto Miche. Miche. Allora Miche, noi nella prima parte della puntata ti chiedevamo di sintetizzare un po', certo, le origini, diciamo, le origini quindi da dove è nata questa passione, da eccetera eccetera. Certo, parlaci, certo, un po' di te. Io possiamo dire che la mia passione della musica c'è sempre stata questa voglia di musica, l'ho presa da mio papà. Mio papà, suonando sax e clarinetto, insomma, diciamo che mi ha trasmesso questa passione, questa cosa che ho da dentro. E ho cominciato ad assistere i suoi concerti, a tenere il tempo con le mani, e da lì a 11 anni ho detto: perché andare a assistere solamente i concerti, non provare a studiare la musica? Allora là, a 11 anni mi sono iscritto a scuola di batteria. E infatti ancora adesso studio questo strumento, infatti è da 8 anni e mezzo che lo studio, quasi 9, e da lì ho trovato qualche gruppo, ho trovato una rock band, facevo rock con un gruppo, jazz, blues, swing con un altro, insomma da lì mi sono un attimo aperto le idee musicali. Poi ho deciso di aprirle ancora di più e da lì ho provato a fare DJ. Allora mi sono comprato l'attrezzatura minima per imparare. E mi sono comprato due lettori CD e un mixer poco costosi, insomma, per non spendere tanto, per provare un attimo anche a capire se era una cosa che faceva per me. Una macchinetta. Sì, potresti fare radio. Vabbè. Con la roba scritta davanti sono bravi tutti. Soprattutto al posto di Diego. Ma sei un diesel? Non dovevi dirlo, no. Ascolta, ma sei un diesel? No, è un DJ. No, sono a benzina. Sono 1600 benzina. 1600 DJ. 1600 DJ. Sì. No, scusa, una piccola, certo, domanda, certo, mi è venuta in mente. Quindi dimmi, tu sei DJ, sì, hai imparato anche la batteria. No, ho imparato prima la batteria prima e la batteria. Successivamente DJ. Giustamente. Sì. I nostri ascoltatori a casa magari potrebbero chiedersi se non, sì, cozzano un po' queste cose. Tu hai un gruppo, hai detto una rock band, hai detto. Sì, quindi, sì, sì, sapere se non cozza o non bongola. Sì. No, a parte la battuta di Diego che fanno ridere i polli. No, sono due cose che riesco a fare contemporaneamente. Secondo me una cosa importante dei musicisti è riuscire a interpretare tutti quanti i generi musicali. Anche se in molte persone è una cosa che viene difficile. Per esempio, certe persone si restano fissate con un genere musicale. Io mi piace insomma suonare sia rock sia jazz e anche la mia musica house. Ti piace spaziare, insomma, a 360 gradi, come il nostro bellissimo, simpaticissimo programma che ti ospita. Certo, certo. Poi facciamo i conti, ci mettiamo d'accordo per quanto devi pagare. La mentalità aperta. La mentalità aperta. E non sia solo la mentalità aperta. Sapevo. Sì, è solo la mentalità. Scusa, ti interrompo brevemente perché Ludembo tiranno, come diceva Aldo Biscardi. Ok. Diciamo, allora, non ci incuriosiva il fatto che tu possa avere comunque una canzone all'interno magari di questi due generi o anche fuori, se tu puoi, sì, magari avere una canzone preferita o comunque una delle tue canzoni che sono una, preferite, una canzone, ecco, che ti rappresenta, certo, certo, certo, in particolar modo. Una canzone, beh, a me essendo da Jaslo, lavorando in spiaggia, essendo sempre in spiaggia, posso dirvi per esempio The Beach Boys, Surfing USA. Ok, ce l'abbiamo? Noi ce l'ascoltiamo subito. Beach Boys. Scherzetto. Scherzettino, caro. Scherzettino. Questo, abbiamo fatto uno scherzino un po', no, nostro. Grazie, grazie ragazzi. Stavo immaginando Michè in spiaggia con i Slayer. Sì, in spiaggia con gli Slayer. Sì, mi stavo aspettando questo surf, invece mi è arrivato surf, questo metal. Potremmo fare Slayer, un bel film in spiaggia con gli Slayer. Certo, bellissimo. Gli Slayer che prendono il sole. Avanti con le domande. Ma avanti. Vorrei chiedere a nonna Fregolina come si dice Slayer. Guarda che grippa. Slayer. Grande, una pegolina. Bon, basta così. Basta così, okay, basta così. Basta. Allora, dicevi appunto che quindi tu hai già come si dice quando uno fa il disc jockey, il verbo, hai già suonato, playato, sì, come si dice? In genere si dice suonare, anche se secondo me suonare è più suonare uno strumento, più suonare come un gruppo. Quindi però confermi dopo che sia un termine un po' improprio, sì, è un pochettino improprio, sì. Ma anche per esempio prende spunto molto dall'inglese, per esempio DJ fa play. Da qui deriva il termine suonare. Sì. Ma Michele, ascolta una cosa. Sì, per, per il futuro hai qualcosa in prospettiva? Hai qualche sogno? Sì, certo, per il futuro io vedo sempre in grande, cerco di vedere sempre il futuro, infatti spero che questo qui diventi il mio lavoro, insomma, da quando sarò, tra virgolette, da grande. Che lo vedo come un lavoro che, secondo me, lavorare divertendosi è la cosa più bella. E lavorare facendo musica è una cosa fantastica, secondo me. Direi proprio di sì. Per quanto riguarda, se uno fosse interessato a te, volesse chiamarti per qualche locale, hai contatti? Sì, certo, Facebook? Certo. Allora vi lascio la mia mail, che è tutto in minuscolo, signori, Michael. Signori, sì, attenzione, sì. Mi raccomando. Allora, tutto in minuscolo, Michael, scritto M-I-C-H-A-E-L. So che tantissima gente sbaglia. Allora, Michael Salamon, DJ. @yahoo.it Yahoo! Naturalmente l'abbiamo chiamato perché è un cannone. Questo, esatto, ragazzo è un cannone. Mo ce lo fumiamo. O se no, cercatemi anche su Facebook. Ed eccoci qui. Ci siamo anche questa notte, sera, mezzogiorno, mattina, pranzo, cena e marendin. Cari amici della notte, pomeriggio, cena, mezzogiorno, pranzo, colazione e marendin di Radio Sandona, di 360 di formazione divertita. Per chi è ancora sveglio, o per chi sta sognando, o per chi si sta facendo il bidet, seduto davanti, o seduto dietro, o qualcos'altro. Per chi non ha voglia, e sono fatti suoi, o non può dormire, che si pigli qualcosa. Se non ha voglia, che cambi donna. Esatto. Per chi vuole sapere, per chi ha voluto saperne di più, abbiamo avuto qui con noi Michael Salmon, DJ Michael Salmon. E arrivederci a tutti. Ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao a tutti, ciao a tutti, ciao nonna Fregolina, ciao, ciao, cari, ciao, ciao, cari, ciao, ciao, mi sto fumando il cannone. Ciao da Tony Angela. Ci ascoltiamo l'ultimo pezzettino, yes, che ci ha selezionato Michael Salmon. Good night. Ciao a tutti, ciao, ciao.